Con questo arriviamo al secondo appuntamento della settimana, martedì sera replicato il giovedì su Rock FM, la voce di Marco Gravelli con lo spazio di Arden Devi offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano e come sempre a livello di scaletta musicale di news preparato dal nostro autore Simone che ci pone subito in apertura il nostro consueto riallaccio al passato, cioè Twisted Sister in questo caso, celebre storica band hard rock di New York nata addirittura nel lontano 1972. Fondatore del gruppo è il chitarrista J.J. French e la line-up in quei primi anni subisce diverse variazioni. È tra il 75 e il 76 che si ha l'ingresso di Eddie Ojeda, secondo chitarrista, e del carismatico cantante Dee Snider, proveniente dagli Heathen. La line-up storica viene infine completata con Mark Mendoza al basso, mentre per quanto riguarda il ruolo di batterista hanno fatto parte da prima AJ Pero e successivamente Joy Franco. La band effettua il suo esordio con l'album Under the Blade del 1981, che ottiene un ottimo successo, così come i due lavori successivi, che sono You Can Stop Rock and Roll e Stay Angry. Nell'88 c'è da segnalare il loro scioglimento, nel 2000 c'è stata la prima reunion in occasione di una data live, così come nel 2001, fino alla definitiva reunion del 2003. Dal loro primo album Under the Blade, oggi iniziamo il nostro Arden Devi con What You Don't Know, Sure Can Hurt You. Questo è il titolo del brano per i Twisted Sister. If you've got that problem, yeah, well, I think that you should know. This ain't the same old story. All the same old song and dance. Don't speak of faded glory, 'cause you won't get a second chance. To tell you something. I'm someone you can trust. You'd better take a good hard look. quite like us. The others all get up and go. Album Under the Blade, e con le note di questo motivo abbiamo aperto con i Twisted Sister. Lasciamo New York, lasciamo gli States per andare in Inghilterra con il periodo della New Wave of British Heavy Metal, con il primo album di questa band, Tigers of Penteng, primo album del 1980 intitolato Wildcat. Loro nascono esattamente 2 anni prima, incidono un demo, un singolo e diverse date dal vivo con Def Leppard, Iron Maiden, Angel Witch, eccetera. Arrivano poi nel 1980 alla pubblicazione di quest'album, che ben si piazzò in Inghilterra al numero 18 e andarono in tour con i Saxon. Con il secondo lavoro, Spellbound, cambio di cantante con l'ingresso del bravo John Deverill, che sarà presente anche nei successivi 3 lavori. In occasione del quarto album, The Cage, del 1983, nascono problemi con l'etichetta, la MCA, e non trovando soluzioni la band decide di sciogliersi. Si riformano 2 anni dopo con un nuovo chitarrista e bassista e pubblicano The Wreck Age. Seguono a 2 anni dopo The Burning in the Shades, che si rivelerà un insuccesso tanto da portare il gruppo ad un nuovo scioglimento. È solo nel 1998, in occasione del 20° anniversario, che la band si riformerà con il vocalista originale Cox per suonare al Wacken Open Air Festival, ottenendo un ottimo responso. Nel 2001 il chitarrista Weiss decide di riformare definitivamente la band con una nuova line-up e ripubblicare un nuovo album, seguito nel 2003 da Noises from the Cat House. Ultima variazione è l'ingresso di un cantante italiano che milita anche nei Mantra, si chiama Jacopo Mille ed è il cantante proprio di questa formazione. Tigers of Penteng, dicevo, dal primo album Wildcat, andiamo ad ascoltare quello che fu sicuramente uno dei brani trainanti del successo di questo lavoro, con alla voce, ricordiamo, Jess Cox e Euthanasia. euthanasia. Okay. Tigers Open Tang, dal loro Wildcat, primissimo album 1980, periodo New Wave British Heavy Metal e Euthanasia. Andiamo invece in Italia, questa volta ritorniamo ad un paio di mesi fa, quando tramite EFM Records viene pubblicato il quarto album in studio per la formazione degli Elven King, questa band italiana che propone power metal con innesti folk e che è riuscita anche a farsi notare a livello europeo. Questo nuovo album è stato registrato in Italia, tranne le parti di batteria che sono state effettuate in Germania. Il coproduttore Nino Loren, chitarrista dei Thunderstorm, che si è occupato anche del mixaggio. La masterizzazione è stata curata da Mika Jussila presso i Finvox Studios in Finlandia. La band suonerà la prossima settimana di supporto agli svizzeri Gotthard qua in Italia per quattro date. Il 10 di dicembre al Viper di Firenze, l'11 al Circolo degli Artisti di Roma, il 13 al New Age Club di Treviso e il 15 al Music Drome di Milano. Vi proponiamo, li ascoltiamo con le note di Poison Tears. This is today I'll die. The scent of lust, my last goodbye. Explosion of this dream. Finish. With thousands of battles I have fought, like a fallen season now I roar. Tonight of the long night, the weakness of our core. Why are you so young, carrying the cross? Still to this day, they follow an icon, I can't believe it. I never learned that there's a life of God. One eyeball in the mouth of the snake, here's more poison. Trying to beat you to the ground like a poison. Tears I fall without a sign. gathered stone. Every time I forget, paradox that has no end. A vortex turning circles in the sand. Si chiamano Evan King, italianissima la band, però con un'ottima produzione. In effetti viene pubblicato, i loro lavori sono pubblicati proprio da etichette straniere, come vi dicevo sono già ben noti in Europa. Così come ben noto in tutto il mondo è il prossimo gruppo. Ritorniamo un po' al passato con Michael Schenker Group, con questa formazione: Gary Barden voce, Michael Schenker chitarra, Don Airey tastiere, Mo Foster basso, Simon Phillips batteria. L'album è The Michael Schenker Group, conosciuto anche con l'acronimo MSG, gruppo nato naturalmente grazie al bravissimo chitarrista Michael Schenker nel 79, dopo la sua fuoriuscita dagli UFO. L'esordio arriva nell'80 con l'omonimo album, che subito riscosse un buon successo, confermato anche dai successivi due lavori. Poi ci sono stati tantissimi cambi di line-up dovuti anche al carattere dello stesso Michael. Diversi sono stati i cantanti, tra cui segnaliamo appunto Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McCauley. L'ultima uscita in studio è stato Heavy Eaters nel 2005. Si tratta di un album di cover dove quasi ogni canzone è suonata da un artista diverso. Il pezzo che andiamo a proporre questa sera è dall'album The Michael Schenker Group, si intitola Armed and Ready. Yeah. Michael Schenker Group con il loro album intitolato appunto Michael Schenker Group. Questa era Arm and Ready. E chiudiamo questa prima parte ancora con il passato. Abbiamo citato ieri la partecipazione da headliner alla prossima edizione del Gods of Metal nella giornata del venerdì 27 giugno. Iron Maiden sarà la loro partecipazione italiana per il Somewhere Back in Time World Tour 2008. Quindi le canzoni che verranno suonate saranno incentrate sulla discografia degli Iron degli anni 80, così come la scenografia che si preannuncia ritornare all'epoca di Powerslave, oltre a richiami a Somewhere in Time. Riguardo quest'album che abbiamo scelto per questa sera, è uscito nell'86, per la prima volta gli Iron Maiden utilizzavano massicciamente le tastiere e il sound di chitarre più leggero. Non mancano comunque anche in questo lavoro tracce importanti come Heaven Can Wait, Wasted Years, Alexander the Great, Stranger in a Strange Land e Cold Summer in Time, che ascolteremo tra breve. Per quanto riguarda la line-up, è la stessa di quella attuale, senza Janick Jarre, che è entrato negli Iron nel 1990. Per quanto riguarda la copertina, curata dal celebre Derek Riggs, è piena di riferimenti ad album e canzoni dei precedenti lavori della formazione degli Iron Maiden. Vi ho già annunciato il pezzo, eccolo in arrivo. Cold Somewhere in Time, per chiudere la prima parte di Hard and Heavy su Rock FM, con la voce di Marco Gravelli e soprattutto col sound degli Iron Maiden. that can never walk away. In your eyes now, I can face the coldness of these days. You're my angel, the only one who could ever break these chains. In your arms I feel your touch caress away my pain. Darkness. inizio di seconda parte di Arden David, questo martedì sera replicato il giovedì in compagnia di Marco Gravelli, molto dolce con Gary Hughes dall'album Veritas uscito la scorsa settimana, il nuovo album solista per il cantante, grande compositore inglese appunto Gary Hughes, celebre anche per la sua band i Ten che ha creato bene 11 anni fa. Il brano che abbiamo ascoltato era Wide Awake in Dreamland. Abbandoniamo il sound appunto di Gary Hughes per passare invece al prossimo supergruppo, gli Empire. Un anno e mezzo fa usciva The Raven Ride, invece questo da poco è uscito questo nuovo quarto album, Chasing Shadows. È una project band tedesca del chitarrista Rolf Munkes dei Majesty, oltre che dei Razorback, progetto che ha sempre visto grandi nomi, per questo vi dicevo supergruppo della scena metal che risale alla fine degli anni 90. In tema di formazione abbiamo la riconferma rispetto ai lavori precedenti del bassista Neil Murray, già con i Black Sabbath e Whitesnake. I nuovi entrati sono Dougie White, Malmsteen ed ex Rainbow alla voce, che va a sostituire un altro grande che era Tony Martin. Alla batteria c'è il bravissimo Mike Terrana dei Masterplan, che ha già suonato con Malmsteen, Rage, Attention e tantissime altre band. L'album infine è stato registrato presso gli studi personali del chitarrista Rolf, che si chiamano Empire Studios. Ricordo che il nome del gruppo è proprio Empire. Il pezzo che vado a proporvi si intitola The Altar. We'll be right back. Arriviamo anche per questa sera alle Metal News. Partiamo con i Virgin Steel. La epic metal band americana ha da poco stipulato un contratto con l'etichetta tedesca Dockyard Wand. Per cominciare questa collaborazione, il prossimo 4 febbraio verranno ristampati due album, Nobles of Age e Age of Contest, in versione rimasterizzata con un nuovo booklet ed alcune bonus track. La band svedese dei Death Stars è attualmente in studio per registrare quello che sarà il loro terzo album, uscita prevista la prossima primavera. Uscirà sempre in primavera, esattamente in marzo, il nuovo quarto album per la power metal band norvegese dei Gaia Epicus. Il titolo sarà Damnation, ci saranno 9 brani, delle quali una sarà strumentale e sono annunciati diversi special guest. Iterion, la band svedese, registrerà lo show che si terrà il prossimo 12 dicembre a Budapest per la prossima pubblicazione di un DVD dal vivo. A quella data ricordiamo che prenderà parte come special guest il cantante Messiah Marcolin, ex Candlemass. Gli Hammerfall hanno registrato il video della traccia inedita Last Man Standing, presente nel loro Best Of, che si intitola Steels Meet Steels 10 Years of Glory, uscito lo scorso 23 ottobre. Visions of Atlantis, la symphonic metal band austriaca uscita da mesi con il loro terzo album Trinità, ha reso noto che è alla ricerca però di una nuova cantante, vista la fuoriuscita di Melissa Firlach per divergenze musicali. Parallelamente la band ha dovuto rinunciare al tour europeo di spalla ai Camelot. E parliamo invece di Diamond Head, la storica heavy metal band inglese. Ha reso noto le date del prossimo tour del 2008, che li porterà anche in Italia per 3 concerti, 11, 12 e 13 di aprile, anche se non sono stati ancora comunicati i locali nei quali suoneranno. Di sicuro invece è già uscito questo loro album, dal quale andiamo a proporre le note di questa canzone, dal titolo This Place and Me. L'album si intitola What's in Your Head, Diamond Head. We'll be right back. Abbiamo ritrovato i Diamond Head con This Place and Me dal loro nuovo album. Parliamo invece di una interessante band metal italiana che si chiama Fury and Grace. Arrivano da Varese, composta da quattro elementi. Il sound è un heavy thrash metal progressivo, formata dal chitarrista e fondatore Matteo Carnio degli Age of Forever, dal batterista Emiliano Bertossi dei Doomsworld e dal bassista Christian Grillo, anche egli degli Age of Forever. Infine alla voce abbiamo Gabriele Grilli. Il gruppo nasce nel 94, nel corso degli anni ha cambiato diverse volte il loro sound. Gli inizi sono stati abbastanza sfortunati, dato che avevano registrato ben due album che non sono mai stati pubblicati, uno nel 98, Mephisto Waltz, e poi Inferno nel 2003. Finalmente, grazie all'etichetta italiana Dragon Art, è uscito questo vero e proprio debutto dal titolo Tales of the Grotesque and the Arabesque, che sta ricevendo ottime recensioni. Suoneranno venerdì 14 dicembre al Pepper Café di Comabbio, provincia di Varese, con ingresso gratuito. Il pezzo che vi propongo si intitola China. Loro si chiamano Fury and Grace. formazione italiana Fury and Grace dalla città di Varese con il loro album d'esordio intitolato Tales of the Grotesque and the Arabesque. Erano le note di China e chiudiamo l'appuntamento di questa sera con i Primordial, uscito da poco questo nuovo To the Nameless Dead per la celebre metal band irlandese, gruppo che nasce nell'87 dopo un demo del 93 arriva nel 95 all'esordio con l'album che si intitola Im Rama. Questo nuovo lavoro esce a 2 anni di distanza dal precedente, presenta 8 tracce, è disponibile anche in limited edition digibook con copertina differente, booklet di 40 pagine e soprattutto un bonus DVD live con lo show che la band ha tenuto nel 2005 durante il Rock Hard Festival. Sono 6 tracce in totale. Li ascoltiamo con le note di Feather's Burden che vengono a concludere l'appuntamento di questa sera di Hard and Heavy. Un ringraziamento a Simone, il nostro autore, allo sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 qua a Milano e poi soprattutto a voi che di sera in sera pazientemente ci ascoltate. Grazie a voi, appuntamento domani dalle 20 alle 21, da Marco Gravelli è tutto, ciao ciao!